La politica alla prova. La politica alla prova, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta, mondo politico in attesa del messaggio di Silvio Berlusconi. Il video che doveva arrivare ieri e poi atteso in mattinata dovrebbe essere mandato in onda a questo punto nei telegiornali della sera. Voci degli ultimi minuti parlano addirittura delle 18, 349-238-6666 il numero per i vostri sms, ma gli argomenti di oggi sono tanti, dicevamo del video di Berlusconi, vi è poi la riunione della giunta per le elezioni di questa sera, ore 20:30, che dovrà esprimersi sulle pregiudiziali avanzate dal relatore Augello del Popolo della Libertà, per arrivare ai temi economici, quali l'imminente aumento dell'IVA che dovrebbe esserci ai primi di ottobre. Per il Ministero dell'Economia non ci sarebbero i margini per fermare l'aumento dell'imposta, gli accordi nella maggioranza erano altri, replica però dal PDL il capogruppo Brunetta. Ascoltiamo allora Brunetta. Assolutamente nessun rischio, perché noi stiamo agli accordi di governo e stiamo anche agli impegni del Presidente Letta in occasione del decreto del 28 di agosto, con il quale si è cancellata la rata di giugno dell'IMU. Quindi nessun aumento dell'IVA per ottobre, ma, come è stato detto, riforma dell'intera tassazione IVA all'interno della legge di stabilità per il 2014. Nessun aumento dell'IVA a ottobre. La sua domanda presuppone una risposta ministeriale. Io non sono il Ministro dell'Economia, sono solo il capogruppo del Popolo della Libertà, che è il partito partner di maggioranza. Gli accordi di maggioranza prevedevano che non aumentasse l'IVA ad ottobre e così sarà, altrimenti non ci sarà più la maggioranza. Questo dunque l'out-out di Renato Brunetta, capogruppo del PDL qui alla Camera, un Brunetta come al solito molto combattivo su un tema quale quello dell'IVA. E veniamo al messaggio di Silvio Berlusconi, il video come dicevamo è atteso nelle prossime ore, è arrivata poco fa l'ufficialità, dovrebbe il video essere trasmesso alle 18. Cosa conterrà il video? Lo abbiamo chiesto all'ex ministro del PDL Francesco Saverio Romano, ascoltiamo. Il messaggio di Berlusconi è ampiamente previsto, è il modo col quale il Presidente vuole comunicare non solo il suo stato d'animo agli italiani, ma anche l'inizio di un nuovo progetto politico. E la situazione in Italia è abbastanza particolare. In questo momento ci troviamo a sostenere un governo che abbiamo fortissimamente voluto e che Berlusconi ha fortissimamente voluto, però vi sono delle azioni in parte esterne alla politica, in parte politiche, che lo vorrebbero fuori dalla scena. È come dire, ti chiediamo di sostenere a spalla un peso importante, allo stesso tempo ti seghiamo le gambe. È pur vero che dall'altra parte il PD, quando mai volesse aiutare Berlusconi, dovrebbe fare i conti con la propria base. Quindi a livello parlamentare come se ne esce sul percorso della decadenza del Cavaliere? Noi continuiamo a chiedere al PD non un aiuto, perché non abbiamo bisogno di aiuti, ma continuiamo a chiedere al PD lealtà politica. E quindi, come nel caso della decadenza, abbiamo assistito invece a una rincorsa a chi consegnava prima la testa di Berlusconi. Questo è inaccettabile, soprattutto perché sosteniamo un governo che non è paritario ed è di tutta evidenza che in quel governo il PD ha la stragrande maggioranza. Quindi non dobbiamo temere rotture di questa intesa del governo di larghe intese in questo momento da parte dell'ex Presidente del Consiglio? Sui fatti che lo riguardano personalmente, certamente no. Poi il governo è chiamato a fare alcune cose che sono quelle che lo hanno fatto nascere, cioè gli impegni presi per risollevare l'economia, rilanciare l'economia e dare una risposta anche al mondo del lavoro, e su questo anche la nostra delegazione sarà incalzante, non soltanto il gruppo parlamentare o i gruppi parlamentari. E così Saverio Romano del PDL, ma basta con questi videomessaggi, faccia politica come gli altri, scrive Renato. Antonio da Como, purtroppo in Italia prospettive del futuro non ce ne saranno finché governeranno questi incapaci. Questi alcuni sms al 349-238-6666. Sul fronte Partito Democratico si guarda con attesa al messaggio di Berlusconi, ma il partito in realtà è più proiettato all'assemblea del fine settimana. Sentiamo allora Sandro Gozzi, proprio del Partito Democratico. Questo è un maestro, da 20 anni, è chiaro che è tutto un gioco comunicativo e Berlusconi è abilissimo anche nel fare notizia non facendo o non comunicando, su questo è evidente, lo sappiamo da tempo. Io spero che se mai questo video arriverà, spero che ci dica che, dato che ama tanto l'Italia, ha deciso di fare un passo indietro e di dimettersi prima del voto in giunta, prima del voto in aula. Credo che sarebbe forse l'unica volta, la prima volta in cui Berlusconi dimostra di avere senso delle istituzioni e un minimo di senso di responsabilità, non solo verso se stesso e i suoi interessi economici e aziendali, ma verso il paese che tra l'altro ha governato per così tanto tempo con così pessimi risultati. E così Gozzi del Partito Democratico, critico con PD e PDL, il Movimento 5 Stelle. Sentiamo allora Riccardo Nuti. Stando in uno stato che si può definire allucinante, cioè noi stiamo qui ad aspettare da un delinquente, da un condannato in via definitiva, se deve abbandonare il Senato o meno. Ovviamente questo interrogativo non si dovrebbe neanche porre in un paese civile, mentre invece stiamo ancora a chiederci ma Berlusconi stacca la spina o meno. Invece dovrebbe essere proprio il contrario, non dovrebbe essere lui ad esprimersi a riguardo, ma dovrebbe esprimersi tutto il paese e subito le istituzioni della serie: noi non possiamo governare con un delinquente, non possiamo fare delle riforme ancora più importanti come quelle costituzionali con un delinquente, e quindi ne va della credibilità del paese e abbandoniamo questo tipo di alleanza che già era impresentabile prima. In via parlamentare il Movimento 5 Stelle cosa propone? Propone la decadenza di Berlusconi ed il fatto che si vada alle elezioni per evitare che questa gentaglia continui a governare. Cioè, noi non possiamo più permetterci di avere delle persone che fanno i condoni alle slot machine, che non vogliono eliminare gli sprechi dei cacciabombardieri F-35, che piuttosto che fare delle serie leggi sul conflitto di interessi pensino ad eliminare l'opposizione e ritengono che questo palazzo sia il loro e non quello dei cittadini. Si potrebbe andare ad elezioni in tempi brevi anche con questa legge elettorale? Purtroppo non ci sono molte alternative, in quanto la legge elettorale andava cambiata come primo passo di questo governo e invece non l'hanno voluto fare. Noi lo faremo appena saremo al governo, cambieremo la legge elettorale discussa in questi mesi con i cittadini. Quindi se non c'è il tempo di fare altro, come appunto sembra esserci, si va alle elezioni subito. Il concetto però da far capire agli italiani è che non devono più dar fiducia a questa gente. Ricordiamo che a febbraio 9 milioni di voti sono stati persi da PD e PDL, quindi non è vero che la gente comunque li vota, perché hanno perso 9 milioni di voti e non sono pochi. Movimento 5 Stelle protagonista in aula alla Camera, una nuova polemica con la Presidente della Camera Boldrini, protagonista in questo caso l'onorevole Cristian Iannuzzi, che ha chiesto alla Boldrini di dimettersi. Velocemente alcuni sms: un errore che la politica in Italia dipenda dalla vita giudiziaria di una persona, scrive Alessandro. Quando riuscirà il centrodestra a camminare con le proprie gambe? Come sono ridicoli questi comunisti, vorrebbero che Silvio stesse fermo. Questo un altro nostro sms al 349-238-6666, la politica alla prova termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.